ricordarlo mai. Sulla pellicola l'ho inciso, non dici una parola, eppure porti già il cielo in questa stanza. Posso solo immaginare, posso solo immaginare cosa combinerai passata l'infanzia. La la la la la la la la, la la la blu, I love you. La la la la la la la la, la la la blu. Ti voglio così forte ed offrire l'altra guancia, senza mostrare mai la forza nelle braccia. Con quel bel sorriso stampato sulla faccia, che fin da vicino sarà getto di caccia. Sei figlio di tuo padre, ce l'hai nel DNA. Attento dovrò stare a quella ragazza là, che prepotentemente ti ruba il cuore. Non potrò farci niente per ore e ore e ore, ore e ore, ore, ore, ore. Rosa senza spine, alcuni piano, altri più veloci delle rime. Alcune fatiche ti parranno spese in vano, di altre coglierai lungo la strada i frutti piano piano. La vita corre e non si arresta un'ora, il carabiniere a casa per un brutto volto a scuola. Sentirai tuo padre urlare, Christian, via la chitarra, ma ti parrà impossibile proprio quando l'ora si fa tarda. Nelle braccia, quel bel sorriso stampato sulla faccia, che fin da vicino sarà getto di caccia. Sei figlio di tuo padre, ce l'hai nel